Salve a tutti, bentornati su Radio Big World, bentornati sull'Arcadia, io sono Gabriele, il pazzo di 10 anni che tutti sfottono perché dice quello che ha dentro e l'impressione che gli danno i burattini là fuori. Che patire. Uno che deve fare? Che deve fare uno per vivere? Oltre che spezzarsi la schiena. Poi tanto abbiamo criticato lo stesso. Quindi, allora, come dicevo, come ho detto l'altra volta, diciamo come ho detto l'anno scorso, o qualche anno fa, tipo mi sembra un paio d'anni fa, dissi questi burattini schifosi che ci rubano i soldi e basta, tanto anche se si va a votare non cambia niente. E 2 anni dopo posso dire, sapete che c'avevo ragione. Di solito la gente dice, ma vivi la tua vita e fregatene di altri. Fai i cazzi tuoi. È un bel mondo dove ognuno pensa per sé, poi dopo però invece si sta male perché non c'è nessuno che, quando ci ritroviamo soli e abbiamo bisogno di qualcuno, non possiamo stare soli, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia una mano, che ci aiuti, ci dia un conforto, ci dia un qualcosa. E è bello avere un sacco di persone intorno che cercano di aiutarti, ma a volte è anche opprimente, non bisogna esagerare, perché poi si inizia a togliere ogni fiato a quella persona. Quindi, allora, è passato non so quanto dalle elezioni e, come ho detto, fanno come voglia loro, noi non decidiamo niente, e penso in questi giorni voi abbiate avuto la prova che forse tanto scemo non so. Quindi avevo detto che si sarebbe parlato di cose, perché quando, a parte io vedo la terra piatta, non la gente morta, vedo la terra piatta, si iniziano a vedere cose diverse, si vede il mondo in modo diverso. Oh, l'ho trovato, questa diciamo è la terra piatta vista dai simbolismi, da un punto di vista un po' diverso, diciamo, un po' come la storia infinita o altre cose, però un punto di vista diverso. Se sentite rumori in sottofondo so io che taccheggio, quindi è bello essere di nuovo se stessi, ritornare dicendo se stavo, di che ha fatto. È che diciamo a volte sei obbligato a doverti comportare in un certo modo, diciamo, per non far star male le persone che ti sono vicino, però a volte rinunci a una parte di te, sacrifichi una parte di te, del tuo carattere, del tuo essere, che non è necessariamente, magari a volte può essere cattiva, può essere brutta per gli altri, forse è la parte che fa più male, uno rinuncia a quello, però poi non sei più te, non sei più te, sei un'altra cosa. Nel momento in cui togli una qualsiasi parte del tuo carattere, non sei più la solita persona, e le persone devono imparare a accettarti per quello che sei. Questo non significa che se uno è un beh, giù, parliamo come si mangia, se uno è una testa di cazzo deve rimanere testa di cazzo e comportarsi e trattare quell'altro male perché è il mio carattere, sono fatto così. No, uno si può sforzare di cambiare e di smorzare alcune parti di questo carattere, però c'è anche da capire perché una persona si comporta in un certo modo. Perché io mi arrabbio? perché me la prendo, perché vo per la strada, registro lo schifo che c'è magari nella mia città, come le buche enormi. Ieri sono andato in bicicletta, mi veniva da vomitare dallo schifo che c'era per la strada. Ma noi sudicio, i sassi enormi. Noi dice, ma come c'è sassi? Sì, c'è sassi enormi. Sembra di essere in un cantiere. La strada sterrata di un cantiere dove ci passano i mezzi pesanti da tonnellate e tonnellate è meglio dell'asfalto dove ci deve passare i bambini in bicicletta, i ragazzi che devono andare a scuola, le persone anziane che devono attraversare la strada. Quando dico che ci rubano soldi, è vero. Potete non credermi, potete guardatevi intorno. Fanno quello che è bene per il paese o fanno quello che è bene per loro? Fanno quello che è bene per le persone, per i cittadini, o fanno quello che è bene per loro, per le multinazionali o per chi c'è dietro a muovere i fili? Ora io non so chi c'è dietro a muovere i fili. C'è tante persone a muovere i fili dietro, però io li voglio tagliare tutti questi fili. Quindi lasciate perdere le parole di un pazzo, quello che sono io per molti, però in molti si stanno anche ricredendo, stanno ritornando sui propri passi e stanno dicendo: questo lì c'ha ragione, è vero, e ci pigliamo per il culo. E allora alziamoci insieme e diciamo le cose come stanno. Però oggi, l'ho detto, volevo parlare di altre cose, quindi partiamo. Magari molti non sono d'accordo, anche di quelli che, diciamo, la vedano e come me. Però una cosa che mi ha sempre fatto fare delle domande è il perché, nonostante la distanza e lingue così diverse tra le persone nell'umanità, perché ci siano delle parole che si assomigliano così tanto, sia nella pronuncia e nelle lettere come vengono scritte, il significato. Perché eppure c'erano non ci conoscevamo, quindi secondo me non esiste che siamo nati, ci siamo ritrovati come uomini scimmia delle caverne, facevano e si avevano. Non credo sia funzionato in questa maniera. Come ho detto, io non credo nell'evoluzione, non credo che si viene dalle scimmie, quindi e non mi vergogno per niente, perché non c'è modo di provarlo. Ma ci sono i fossili, c'è Lucy. Sì, c'è Lucifer a prova del fatto che si viene dalle scimmie. Lucy in the sky, come la canzone di John Lennon, dei Beatles, Lucy in the sky. Quindi a un certo punto sono tanti piccoli gruppi di uomini delle caverne, ognuno ha sviluppato la sua lingua e il suo linguaggio. Certo, sì. Oltretutto, come bambini, come diciamo da quando nasciamo, dobbiamo imparare il linguaggio, imparare a parlare, imparare anche a esprimersi. Generalmente impariamo il linguaggio dalle persone che ci stanno vicino, da chi ci è vicino, specialmente dai genitori. Vedi, e ci sono centinaia di linguaggi. Non siamo nati sapendo una determinata lingua. Non è perché io sono nato in Italia, da genitori italiani, so automaticamente l'italiano. No, mi deve essere insegnato. Se appena nato venivo portato in Francia o in Russia e mi veniva insegnato o il francese o il russo, parlavo il russo o il francese, perché mi è stato insegnato in quel modo. Quindi sono nato in Italia, parlo l'italiano perché mi è stato insegnato. Quindi nella Bibbia, nel Vangelo di Giovanni, Ora non sono tanto ferrato su queste cose, come ho detto, io non ho mai, diciamo, seguito queste cose, le ho sempre, diciamo, derise, ho preso in giro chi parlava di queste cose, e quindi, come ho detto, ho cambiato fazione, sono passato dalla parte dei buoni, come mi piace chiamarli a me. Dice: nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Quindi chi ci ha dato la parola? Da dove è venuta fuori? Almeno dice il creatore ci ha dato i linguaggi. Quindi i linguaggi erano una cosa buona. Quindi la parola è stata il linguaggio che è stato dato all'umanità, era una cosa buona. E poi magari ci ritorniamo dopo su questa cosa. Se andate a vedere il Parlamento Europeo, cercate, vi invito davvero a cercare l'immagine del Parlamento Europeo per rendervi conto un attimo dell'idea. E poi andate a cercare l'immagine della torre di Babele, di Bruegel, non so come si chiama, però guardate quanto sono simili. Quanto si sono praticamente identi, e non è una coincidenza. In un'altra immagine, in un altro, diciamo, cartellone pubblicitario, in un'altra immagine si vede, mentre la costruiscono, sempre di Parlamento Europeo, si vede una gru che simboleggia che è ancora un lavoro in corso, e c'è scritto Europa, cioè in inglese Europe, many tongues, one voice, molte lingue, una voce sola. E qui ritorno, no, all'unico governo mondiale. Ma io sono scemo, perché una voce? Perché stanno provando a unire tutto, no? E sopra ci sono 11 stelle, e ce ne sono due dietro, altre due dietro che non si vedono. Se avete trovato l'immagine giusta, so che è difficile qui spiegare le cose, però ci si prova in qualche modo. Quindi sono 11 più 2 sono 13, e credo simboleggi le 13 famiglie illuminate, degli illuminati. Oltretutto mi sono anche tagliato la punta della lingua, e è non fastidioso di più. C'è anche un fiume che gli scorre vicino, quindi abbiamo anche l'acqua come elemento. Quindi abbiamo che da una lingua siamo andati a tante lingue diverse, così che il controllo, ora si sta parlando diciamo in ambito religioso, o comunque vi ho detto, so nuovo in questo argomento, quindi cercate di capirmi se non è facile anche per me di parlarne, magari non, però credo di essere nella direzione giusta. E quindi perché dividere l'umanità in tante lingue diverse? Per rendere il compito del diavolo, del male, più difficile, per non lasciarci ingannare più facilmente. Quindi qui cosa stanno cercando di fare? Qui vediamo che si ripete la storia di nuovo con la Torre di Babele, no? Che cercano di unire tutti verso una razza sola, una lingua sola, una religione sola, un sesso solo, tutto per controllarci, tutto per renderci schiavi. Ogni progresso della civiltà è stato costruito sulle spalle di una manodopera sacrificabile. Non abbiamo più lo stomaco per gli schiavi, a meno che non siano artificiali. Potremmo assaltare l'Eden e riprendercela. Quindi ci sono dei ricercatori alternativi là fuori che dicono che, diciamo, la Torre di Babele è una cosa buona. Ma secondo me invece è una cosa di cui bisogna tenere d'occhio, bisogna, diciamo, esserne a conoscenza. Diciamo, alcuni dicono, ma come fa a non essere una cosa buona che una lingua, no? Tutti sotto un... No, non è una cosa buona. Questa è la mia opinione. Poi. Quindi c'era Nimrod, che era il leader egiziano. E c'è la tavoletta di Nimrod, dove c'è il sole e la luna in cima di questa tavoletta, che mostra, no, che lui vuole costruire questa torre finché non raggiungerà il paradiso, quindi che possa essere come Dio. Quindi Nimrod è l'equivalente di Baal, demone, diciamo, servo di Lucifero. E diciamo, una rappresentazione più moderna la possiamo ritrovare in Justice League, la Torre di Babele nel fumetto, cioè proprio, si chiama proprio così, la Torre di Babele. Quindi chi è Babele in questa, nella foto, nell'immagine che andiamo a trovare? È Batman, che rappresenta Nimrod, rappresenta Baal. Batman lo possiamo anche prendere come se fosse un vampiro, e Superman sotto nell'immagine, se lo trovate, si chiama Justice League La Tour de Babel o qualcosa di genere in francese, a meno che c'ho questa immagine. Si vede Superman, che qui sarebbe e rappresenterebbe il figlio di Dio. Quindi vogliono che la torre di Babele salga sopra gli altri, sopra il figlio di Dio. E se andiamo a vedere la torre nei tarocchi, la carta della torre, che è la rappresentazione della torre di Babele, vediamo che la torre è colpita dall'alto da un fulmine, che è l'intervento divino, buttando giù Nimrod dal trono che si è costruito. E abbiamo il numero 16, 6 e 1, 7. 7 è un numero divino o qualcosa di genere. Quindi abbiamo Dio che ferma Nimrod dall'essere il dominatore della terra, essere praticamente, quindi lo ferma. Quindi Dio, praticamente fermando questa costruzione della torre, quindi ecco perché viene definito grande lavoro, perché è stato fatto in anni e anni e anni. Dio non solo ci ha protetto dandoci differenti linguaggi, ma ha anche nascosto dei significati nelle parole, in modo che chi vuole vedere davvero abbia la verità davanti ai propri occhi. Chi, diciamo, capisce le parole, capisce il mondo. E qui c'è una, vi cito Steve Jobs, che dice, ve lo dico a parole mie, non sto a prendere la traduzione letterale, però se volete cercatelo, è una frase di Steve Jobs: il vostro lavoro è quello di riempire una grande parte della vostra vita, e l'unico modo per essere veramente soddisfatti è fare quello in cui si crede, fare quello che riteniamo un grande lavoro. E l'unico modo per fare questo grande lavoro è con l'amore in quello che facciamo, e se non l'abbiamo trovato ancora dobbiamo continuare a cercare, non ci dobbiamo arrendere, tutto ha importanza se fatto nel cuore, e lo trovate e ve ne rendete conto quando lo trovate. Più o meno sono queste le parole. e viene ripetuta spesso questa cosa del grande lavoro, great work. E abbiamo anche, c'è anche la foto, se andate a cercare, diciamo, queste parole, cioè, si tocca il mento, e toccarsi il mento è un simbolismo, come lo può essere il simbolo del silenzio, il 666 fatto con la mano e sembra ok, no? Son simbolismi. E troviamo tante foto con persone o personaggi famosi che si toccano il mento con un dito. Quindi abbiamo grandi attori che seguono questo grande lavoro. Anche Carl Sagan spesso sta con, viene ritratto con, che si tocca il mento, si tiene il mento, sta a significare che supportano questo grande lavoro e sono, come li chiamo io, agenti del male. Ci possiamo mettere anche David Bowie, e diciamo sono, fanno tutti parte della massoneria. Praticamente si mostrano come in queste foto, in queste pose, si mostrano come coloro che supportano, diciamo, sono con questo grande lavoro. Quindi è tutto, questi musicisti, questi attori o grandi personaggi sono contro il lavoro di Dio, contro quello che ha creato Dio. Quindi sono tutti mani sinistre, non saprei come tradurlo, che ovviamente io in italiano di queste cose non trovo niente, tutto in inglese o in altre lingue, quindi diciamo traduco tutto per conto mio. Quindi, come ho detto, dovete fare le vostre ricerche, non è facile, tanti non hanno voglia, non vogliono credere a queste cose, però diciamo ognuno sceglie la sua strada, io ho scelto la mia, ho voluto scavare, ho voluto cercare, ho trovato tante cose orribili, brutte, incredibili, ma è la verità, sfortunatamente è la verità. Quindi tutte queste persone sono contro, diciamo, non contro l'umanità, però contro noi, sono maligni, seguono la strada del diavolo. Quindi se andate a cercare, io in 5 minuti ho trovato due o tre personaggi, però se voi ci mettete un pochino ne troverete tantissimi in questa posizione. Ora, diciamo, sapete il perché. Quindi, detto questo, la verità, diciamo, della terra, diciamo, è codificata, è nascosta. Per ora io vi lascerei, diciamo, a questo punto. Se spero vogliate indagare di più, guardare di più su questo argomento, e se, diciamo, casomai lo possiamo approfondire, andare avanti, diciamo, per questo senso qui. Vi lascio così, grazie di essere stati con me finora, in bocca al lupo per tutto, e grazie a Radio Big World, e dall'Arcadia è tutto. Alla prossima, ciao!